quella bagasse non è tua. Pronto. A tua madre. Che te sei tu qua a far suonare, eh? Non finisci? Tu chiassi che fa che la sta a metà? Ah, vuoi 10.000 lire? Mi darò un coglione. Ma che ne dico? Coglione. Che poi a pranzo mi rivedo io a casa tua, capito? Se fanno la gente, poi ti sia Paolo che dà fastidio. Siete voi i portoghi. Thank you. La tua madre, capito? Stanotte ti viene di nuovo e ti telefonata, hai capito? E rompe il coglione la tua madre! Quando ti finisci è bello? Hai capito, eh? Che nessuno ti sta disturbando.